Radio Wombat. Radio Wombat 8 Hertz. Eccoci, buonasera a tutti, siate su Radio Wombat e questa è 8 Hertz. E ci è scappata un po' di mano la faccenda, infatti anche questa settimana facciamo un'altra rotella, bensì così ci piacciono tanto e quindi vi ritocca assorbirvi questa scarica di elettronica abbastanza pesantuccia, diciamo, fatta da due persone che non si sa chi siano, voi non sapete chi sono. Infatti è una improvvisazione elettronica anche un po' industriale, diciamo, a questo punto, anonima e libera. L'anonimato appunto ti permette di provare cose che altrimenti, mettendosi la faccia, il nome, non avreste fatte. In questo modo magari si provano a trovare soluzioni interessanti, diciamo. Stasera poi sono persone particolarmente, insomma, sarà una cosa un po' diversa dalla volta precedente, ecco. E quindi, insomma, se poi vi ascoltate le altre un po' capite anche dalle varie introduzioni, se no dico le stesse cose, non vi voglio tediare. Facciamo partire i ragazzi o le ragazze che siano alle macchine. E state pronti, a presto, qui c'è il terremoto, a presto, ciao.